Allora, buonasera a tutte e a tutti. Io intervengo anzitutto per dire un grazie molto sentito agli organizzatori, a cominciare dalla nostra ANPI, a poi l'Istituto Storico della Resistenza, il comitato che rappresenta qui il coordinamento della difesa della Costituzione, il centro di documentazione di Pistoia, in cui proprio in questi giorni mi è capitato di ordinare un libro, un bel libro su Sebastiano Timpanaro, e mi congratulo con chi l'ha pubblicato e chi l'ha scritto. E poi naturalmente un ringraziamento particolare al compagno Ivano, alla Rifondazione Comunista di Pistoia e a tutti voi che siete qui. Perché questo libro, che non l'ho scritto da solo, è un prodotto collettivo, anche a questo ci teniamo molto, è fatto per essere presentato, cioè per essere discusso. Credo questa sia la cosa più importante, se posso aggiungere con tutto l'affetto per la nostra generazione, per essere discusso fra i giovani e le giovani. Perché in questo senso è un libro militante, io rivendico questa parola senza equivoci. Militante non vuol dire fazioso, non vuol dire propagandistico, militante vuol dire che assume con chiarezza una posizione e vuole combattere una battaglia per la nostra democrazia che oggi, io credo, ruota intorno al tema della memoria e della conoscenza storica assai più di quanto noi non crediamo e di quanto non fosse in passato. Perché che cosa è successo? Non si tratta solo della cosa un po' retro, no? Di dire i giovani non sanno, i giovani non capiscono, a parte lo dico a consolazione dei compagni più giovani presenti, questa ignoranza della storia è diffusissima in tutte le generazioni. E quindi non è un problema di prendersela con i giovani come fanno i professori un po' vecchi, no? Come ormai siamo noi due. È successo qualcosa per me di più importante, di più radicale, cioè una battaglia che si è svolta sul terreno della narrazione, adesso si usa dire storytelling, e che gli antifascisti hanno perso, almeno per ora, senza neanche combattere. Uno studioso indiano, Oli Baba, dice le nazioni sono narrazioni, cioè la narrazione costitutiva dell'identità culturale e politica di una nazione. Pensate solo, lo dico per chi si occupa di letteratura, l'importanza che ha la narrazione costruita, stavo per dire inventata, dal grande Francesco De Sanctis, che ha costruito una immagine della storia nazionale, no? Con i suoi picchi, con i suoi eroi, con le sue crisi e così via. Ora, la narrazione dell'Italia berlusconizzata esclude la memoria. Io direi che la memoria è proibita, perché la profondità della memoria, la capacità di distinguere della memoria, la capacità di dire che non è tutto una puntata del Grande Fratello, è proibita, perché la politica è ridotta a mediaticità e chi in questa superficiale mediaticità introduce elementi di contraddizioni è proibito. Io credo che noi abbiamo assistito in questi decenni a una sorta di proibizione della memoria e della storia del Novecento in particolare, ma non solo. In questo modo il vecchio e secondo me un po' viscido a fascismo della borghesia italiana, no? Io non so di nessun partito, sono tutti uguali, fascisti, antifascisti, i partigiani però, e allora le foibe, tutta questa narrazione che configura l'afascismo è diventata un anti-antifascismo. C'è un processo alla resistenza che serve per fare il processo alla Costituzione, che serve per fare il processo alla democrazia. Allora, contro questo non c'è che una cosa da fare, che è la tradizionale ricetta della cultura contro la barbarie. Conoscere, sapere, studiare, farsi raccontare, ma poiché, appunto, come tu dicevi, il racconto preziosissimo che è quello che ha formato la nostra generazione, no? Il racconto dei partigiani, degli antifascisti, anche dei compagni più anziani, naturalmente viene meno, studiare. Studiare cose semplici, noi per esempio abbiamo messo qua una cronologia, sembra una cosa elementare, ma vi confesso, nel scrivere la cronologia ci siamo sorpresi e indignati e anche arrabbiati, perché ci sono cose che un conto è saperle, un conto è metterle per scritto, ne cito solo una. Il volume si conclude con un documento da Argentina, lo dico con la morte nel cuore, cioè delle madri antifasciste di Roma, fra cui le madri di due compagni che sono stati uccisi, accoltellate dai fascisti a Roma, hanno raccolto gli episodi di fascismo, neonazismo, omofobia, razzismo, aggressioni, pestaggi, bombe e così via, solo dal 2014 al 2021. Ebbene, sono 10 pagine di questo libro. C'è solo il titolo e la data, sono 10 pagine. Quindi, come diceva Bertolt Brecht, il ventre della bestia è ancora fecondo. Il ventre della bestia produce nazismo, neonazismo, razzismo, omofobia e quant'altro. E rispetto a questo noi dobbiamo opporre un muro di conoscenza, di informazione. Da questo punto di vista, è stato già detto, questo libretto, sono in fondo poche pagine, un centinaio e poco più, 200, e costa anche poco. Segnalo il fatto che ne esiste una versione online del tutto gratuita, anche vocale per i libro-vedenti, insomma la stessa versione online disponibile nel sito di Rifondazione Comunista. Dicevo, questo libro è diviso in due parti, il fascismo propriamente detto e il neofascismo, no? Per fascismo propriamente detto, come ha detto il presidente Bartoli poco fa, è quello che finisce nel 45, nel 43. E l'altro è il neofascismo. Ora, sul primo ho poco da dire, insomma, nel senso ci stanno qui presenti persone che l'hanno studiato e lo conoscono assai bene, io non sono uno storico di professione. Però qualcosa anche qua voglio dire, per esempio, l'importanza che ha avuto per la nascita del fascismo la guerra. Il fascismo è figlio diretto della prima guerra mondiale. Cadorna viene già chiamato duce dai suoi soldati. E c'è in un bel libro che segnalo, insomma, non possiamo discutere qua, spero, anzi un po' possiamo discutere, M di Scurati, che molti credo l'hanno letto, lì viene fuori chiarissimo come D'Annunzio, per esempio, ha un ruolo decisivo nella nascita del fascismo. Cioè questo, perché la guerra significa nazionalismo, significa poi maschilismo, significa odio, identità e retorica. E tutto questo potrebbe essere declinato e approfondito. Ma certo, per noi è preoccupante questo nesso, che io credo sia evidente e costante, fra guerra e fascismo. La guerra provoca il fascismo provoca la guerra. E questo è un elemento che spiega le posizioni ancora una volta rigorosissime, importanti e unitarie dell'ANPI anche sulla guerra in corso. Una sola cosa sul fascismo veramente detto voglio ricordare, perché mi sembra si tratti del grande rimosso: il colonialismo e il razzismo italiano. Ormai che le leggi razziali, cosiddette in realtà le chiamiamo leggi razziste del 38, sono un'infamia inescusabile, ci arrivano tutti, ci arriva quasi il Presidente del Senato a capirlo, no? Con qualche sforzo di comprensione. Ma il razzismo italiano, il colonialismo, è precedente anche all'alleanza con Hitler, che risale alle imprese coloniali, risale all'uso dei gas, forse per la prima volta nella storia, per sterminare le popolazioni, alle deportazioni di massa in Africa, 60.000 persone di cui ne arrivano 20.000. Ebbene, questo, noi alimentiamo questo mito dell'italiano brava gente, no? E invece l'italiano colonialista è stato colonialista, cioè imperialista, cioè razzista, cioè fascista, anche prima che il fascismo, come dire, facesse sistema e portasse alle estreme conseguenze queste caratteristiche. Ebbene, in Italia non se ne parla. Esiste vicino a Roma un monumento al maresciallo Graziani, ad Affile, maresciallo di cui l'Ampi ha chiesto la rimozione, e continueremo a chiederla finché non resterà pietra su pietra di questa vergogna. Il mausoleo è come se in Germania ci fosse il mausoleo a Goebbels o a Goering o a Himmler, ma questo monumento è stato costruito 12 anni fa, e Ishal Bashego, una scrittrice molto interessante, importante secondo me, ha chiesto proprio come erede delle vittime di quegli stermini la rimozione del mausoleo Graziani. Sono passate 2 legislature di centrosinistra, il presidente Zingaretti, il monumento sta ancora là. Questo per dire la capacità di dimenticare, di fare spallucce, di autoconsolarsi, di assolversi, che sono fra le caratteristiche non migliori del nostro popolo. E le leggi razziali sono la stessa cosa. Noi in questo libro le pubblichiamo, il Manifesto della Razza, lo pubblichiamo integralmente. Io non so se tutti i presenti l'hanno letto, io non l'avevo letto, è una cosa incredibile, no? E questa vergogna, me ne cito solo una, mi fa quasi ridere, i 44 milioni di italiani che ci sono oggi sono gli stessi che abitano l'Italia da secoli immemorabili. Nessuna invasione c'è mai stata in Italia, e appunto viene da ridere, dice nessuna influenza semitica c'è stata in Italia, figuriamoci, e anche l'influenza araba si è limitata a cambiare qualche cognome, Guardiamoci in faccia, no? Siamo così belli perché siamo il frutto di continue mescolanze in questo paese, e Almirante, per dirne una, è un cognome arabo, no? Non qualche cognome. Cioè, se il razzismo è sempre una idiozia, il razzismo italiano è un'idiozia al quadrato. Eppure questo manifesto è stato firmato da centinaia di professori universitari, da rettori, da uomini, apro virgolette, di cultura, chiudo virgolette. Padre Agostino Gemelli, per dirne una, ma l'elenco dei nomi c'è ed è un elenco vergognoso, per dire che la cultura ha anche responsabilità, non può lavarsi le mani dicendo non siamo più antisemiti e offrendo i fiori alla senatrice Segre. Si tratta perché questo razzismo è operante nella politica di questo governo e dei precedenti nei riguardi degli immigrati. Non c'è dubbio che se gli immigrati avessero la pelle di un colore diverso non si permetterebbe di fare del Mediterraneo quella tomba a cielo aperto che è, con decine di migliaia di morti, decine di migliaia di morti. Una strage di cui questo paese fa spallucce e il giorno dopo fa karaoke, no? Ecco, questo cinismo, secondo me, delle classi dirigenti italiane è di nuovo un elemento di continuità con il fascismo. Solo questo sul fascismo vero e proprio volevo dire. E gli ultimi 2 minuti della vostra pazienza li dedico invece al neofascismo. Io oso dire, forse una sciocchezza, discutiamone, che per certi aspetti è peggiore il neofascismo del fascismo vero e proprio. Il neofascismo, questa cosa cominciata con la Repubblica di Salò, patria e onore c'è scritto sul monumento di Graziani, ma la Repubblica di Salò cedette pezzi del territorio nazionale al Reich tedesco, non so se è chiaro, a parte che combatté la guerra agli ordini dei tedeschi, a parte che il suo capo si travestì da soldato tedesco con tanto di elmetto per sfuggire alla giustizia partigiana, quindi altro che patria e onore. Il punto più basso dell'onore della patria è stato toccato dai collaborazionisti della Repubblica Sociale Italiana, no? I ragazzi di Salò, torturatori, stupratori, assassini, che l'hanno fatta franca e non hanno costituito una scia di sangue, una terribile scia di sangue che accompagna tutta intera la storia della Repubblica. Perché la serie degli attentati, delle bombe, dei tentativi di colpo di Stato è una serie ininterrotta ed è una serie impunita. Questo è il punto. Anche in casi di rei confessi, per esempio nel golpe Borghese, ci sono rei confessi che sono stati mandati assolti. Sì, golpe da operetta. Golpe da operetta. E il vice di Borghese dice non solo il golpe c'è stato, ma è riuscito. perché l'obiettivo del golpe borghese, come del rumor di Sciabole, di De Lorenzo nel 64, come dei tentativi di Miceli più tardi, non era prendere il potere e costringere gli italiani a indossare la camicia nera, ma era spostare a destra l'asse del paese, era impedire che si compisse una democrazia compiuta con l'accesso dei comunisti al potere e così via. In questo caso il golpe è riuscito. E un partito, io uso questo termine triangolo, ed evoca anche altre cose, voi siete la città che ha dato i Natali a Gelli, ho imparato dal compagno Vivano, quindi triangolo evoca anche altre cose. Ma questa scia di sangue è costituita da un triangolo costante, che sono esecutori neofascisti. Anche questi sono a piede libero, Mambro e Fioravanti che hanno ammazzato, sono condannati per aver ammazzato 80 persone, cioè hanno 8 ergastoli. Noi li incontriamo a Largo Argentina, a Roma, a piede libero. Sia chiaro. Quindi, esecutori neofascisti, registi e occultatori, non so come dire, cioè, che garantiscono la copertura dei servizi segreti italiani, cosiddetti deviati, e regia e programmazione dei servizi segreti americani e inglesi. Il convegno al Parco dei Principi è organizzato da settori dell'esercito, noi diciamo deviati, ma deviati per autoconsolarci, perché se fossero deviati sarebbero, una volta scoperti, incarcerati, almeno cacciati. Questi muoiono nel loro letto, come è morto nel suo letto Licio Gelli, che appunto rappresenta tutti e tre i lati di questi triangoli, dando luogo a un triangolo massonico. Nel senso che è un repubblichino, è una spia degli americani, è un fascista, e adesso appunto, a proposito della strage di Bologna, i giudici dicono, è fra i mandanti, insieme a Tedeschi, senatore dell'MSI, della strage di Bologna, bravissimo, con i soldi in e sui soldi dico una cosa, perché qui, questo è proprio uno spot per farvi comprare il libro. Siccome gli americani hanno tantissimi difetti, secondo me sono in particolare nemici del genere umano per quanto riguarda le guerre, i golpe, eccetera, ma hanno il pregio di parlare chiaro, e quindi nei loro programmi, no? Domenico Gallo nei suoi articoli cita a volte degli agghiaccianti programmi, ma scusate, una parentesi anti-americana, vi chiedo scusa, ma il pregio, dicevo, di parlare chiaro, c'è Giulio Caradonna, che quelli della mia generazione si ricordano a capo di squadre con Almirante che attaccavano i bastoni e i manganelli il movimento studentesco, respinti peraltro. Giulio Caradonna confessa che a un certo punto parla con Almirante e dice: noi abbiamo bisogno di soldi, dobbiamo chiedere agli americani. Almirante gli dice: come si fa? E Caradonna dice: non c'è problema, c'è un canale diretto che è il costruttore Talenti. Quelli che stanno a Roma sanno che è un quartiere speculativo dopo Montesacro. E allora viene organizzato un incontro fra Caradonna, Almirante e Talenti si abbracciano, si ricordano le comuni imprese fasciste, e i tre vanno da Nixon. E questo quartetto, invece di giocare a scopone scientifico, si fa dire da Nixon: sì, in effetti mi avete convinto, la cosa da fare in Italia è finanziare i fascisti, lo dice il Presidente degli Stati Uniti, e gli dà $600,000 come pourboire, come chip per giocare. Allora Almirante dice: ma come li portiamo in Italia? E gli spiegano: non c'è problema, ci pensa Miceli. Il generale Miceli, capo del SID al tempo, come si chiamava, cioè capo dei servizi segreti italiani, prende una valigia con $600,000 di Nixon e li porta al Movimento Sociale Italiano perché organizzi le sue attività contro la Costituzione. Ecco, capite come siamo messi? Un paese che ha avuto i servizi segreti al servizio della CIA e degli inglesi, che anche qua sono peggio degli americani per quanto è stata la vicenda della democrazia italiana, è un paese in cui la democrazia è costantemente in pericolo. E allora ricordiamoci, il MIS non è stato lo statista Almirante, a cui adesso dedicano le strade. Almirante era il segretario della difesa della razza, cioè il giornale infame di cui pubblichiamo con orrore la copertina, e poi è stato coinvolto in tutte queste cose che Pieni dicevo, ma è stato anche il partito, per dirne una, è a favore del golpe in Grecia, è a favore del golpe in Cile, cioè avere rapporti organici con la Spagna di Franco e Salazar, i cui esponenti venivano finanziati e coperti da queste dittature sempre tramite servizi. E poi il partito che votava contro il divorzio, per dirne una, benché poi Almirante ne usufruisse. Non c'è una legge civile di questo paese, dalla legge Basaglia alla riforma della scuola media secondaria, che non abbia avuto l'opposizione decisa e violenta di questi personaggi. Quindi non è una cosetta che gli eredi diretti e fieri di questa eredità, che ne conservano il simbolo, oltre che la mentalità, oltre che la cultura politica, siano al governo del paese, no? Io non lo dico per dare un banale allarme, che a volte è anche, può essere un alibi, ma per dire che la situazione è effettivamente grave. E dove si vede la gravità? Come sempre, la tertina di tornasole è la Costituzione. Nel senso che, come la Costituzione è la vera conclusione politica della resistenza, perché è la promessa anche di una società diversa, no? Che non si poteva, per rapporti di forza, attuare nell'immediato, ma che intanto veniva scritta, veniva prefigurata. E così gli attacchi alla democrazia sono stati sempre in questi decenni attacchi alla Costituzione. Dalla legge truffa, anche qui, la legge truffa ha perso o ha vinto? Ha perso, però noi votiamo in un sistema maggioritario, in cui questo provoca anche il fatto che vota il 36% delle persone. Ma insomma, e gli attacchi alla Costituzione sono continuati per cambiarla, per stravolgerla in senso. Ed ora arriva la battaglia finale. La battaglia finale ha due nomi, il presidenzialismo e l'autonomia differenziata. Il presidenzialismo è il contrario del parlamentarismo, cioè la Repubblica presidenziale non è parlamentare. Il presidente è un re elettivo, ma è un re o un imperatore, come gli piacerebbe. E quindi, non a caso, questa è la prossima mossa a cui lavora, non a caso, un personaggio come l'ex ministro Casellati, che ha avuto la sua carriera, la sua gloria, il fatto di avere proposto in Parlamento che Rubbia era la nipote di Mubarak, e su questa base far votare i due rami del Parlamento questa vergogna. Poi è andata sotto la procura di Milano con cartelli per dire che perseguitavano Berlusconi, poi è entrata nel Consiglio Superiore della Magistratura, poi ha fatto la Presidente del Senato, e adesso è colei che scrive questi attentati alla Costituzione. Questi attentati alla Costituzione. Quindi ecco, mi sembra il campo è delineato, la partita da giocare è chiarissima, no? La partita è diffondere conoscenza, informazione e democrazia, perché ci servono queste cose in occasione della battaglia che è già in corso contro il presidenzialismo e l'autonomia differenziata. Vi ringrazio ancora dell'attenzione.